Ok, perché l'immagine che viene passata sui media al momento è abbastanza atroce, insomma. Invece come ti pare la situazione? Diciamo che il fumo era nero ed era abbastanza vasto nell'aria, ma era soltanto fumo, alla fine da roba ci stavano solo due macchine, un paio di macchine arrostite, non abbiamo visto altro. E se non sappiamo se più avanti troveremo questa catastrofe che i media piace molto raccontare. Si parlava di un albergo bruciato, addirittura, ma l'albergo non ce ne stava. Ok, ho capito. Quindi tu a che altezza sei in questo momento, quindi? Adesso siamo dopo il Colosseo, subito dopo il Colosseo. Ok, d'accordo. Quindi state procedendo comunque con il corteo? Stiamo procedendo con il corteo tranquillamente, certo abbiamo fatto i cordoni per motivi di, per salvaguardare quei manifestanti, anche i nostri amici africani che oggi manifestano con noi, che sono presi da Rosarno e da altre situazioni. Questo noi, a noi questo interessa, dobbiamo guardare soprattutto loro che già stanno abbastanza, non vivono una vita facile, non vogliamo che rendendo il loro diritto a manifestare, ecco, si possano inguaiare ancora di più. D'accordo, d'accordo. Va bene, grazie mille. Allora in caso ci sentiamo più tardi, grazie di nuovo. Va bene, d'accordo.